ove lasci il retaggio che dal materno sangue al gran figlio deriva. Del Boristene in riva veggio mille campioni erger la fronte, e l'aste e le bandiere alzando in mille guise agili e pronte in festivo drappello mandar voci giurive al re novello. Alle piante dell'infante faccia trono e terra e mare, alle piante dell'infante faccia trono e terra e mare, faccia trono e terra e mare, e terra e mare, e terra e mare. Alle piante dell'infante faccia trono e terra e mare, faccia trono e terra e mare. Alle piante dell'infante faccia trono e terra e mare, terra e mare. Thank you. si lasci or ch'io ne porti la felice novella agli altri nu. So che il ciel ne avrà gioia e ne godranno tutti gli aspetti, onde l'etereo amore fa maestoso il bel cammin del sole. La fortuna saprà d'un regno sì caro ai lumi e sì fedel. Chi la fortuna saprà d'un regno sì caro ai lumi, sì caro ai lumi e sì fedel. E sì fedel, e sì fedel, e sì fedel. La fortuna saprà d'un regno sì caro ai lumi e sì fedel. Chi la fortuna saprà d'un regno sì caro ai lumi, sì caro ai lumi e sì fedel. E sì fedel, e sì fedel, e sì fedel. Sì, caro ai lumi, si caro, e si...